Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. La conferenza stampa che è in corso del Presidente del Consiglio Mario Monti e del Ministro Fornero in questi istanti. Conferenza stampa in cui si va a illustrare quello che è lo sviluppo, quelle che sono anche le modifiche per quello che riguarda la riforma del mercato del lavoro in un giorno o in una giornata come quella di oggi, in cui si segnala anche una preoccupazione della Banca Centrale Europea, preoccupazione insomma, sull'andamento economico. La BCE ha lasciato i tassi invariati, però su questo ha chiarito in maniera molto netta che i problemi sono tutt'altro che risolti. Ha detto Draghi: persistono rischi al ribasso. In un giorno in cui è andata male l'asta spagnola di titoli di Stato, di obbligazioni spagnole, nel senso che cosa è successo? Ha collocato obbligazioni, titoli di Stato con scadenza 2015, 2016, 2020, voleva collocare 3 miliardi e mezzo, è riuscito a collocare solo 2 miliardi e 6, un calo della domanda, quindi, che non è un bel segnale, vuol dire che la Spagna non ha trovato tutti i compratori per il suo debito che si immaginava di trovare, e tra l'altro ha dovuto offrire di più, cioè il rendimento è salito dal 2,4% di metà marzo al 2,90% sui bot al 2015, su quelli al 2016 i bonus spagnoli dal 3,3 al 4,3%, i bonus al 2020 rendono il 5,30%, e questo è l'altro fronte. Tra l'altro lo spread tra noi e la Germania, quindi quanto costa l'Italia indebitarsi rispetto a quanto non costi alla Germania, è tornato a livelli alti, 360 punti, sempre meglio dei 550 di novembre, dicembre, ma comunque un livello alto. Continuiamo a ripetere che sotto i 300 punti si può parlare di uno spread che inizia ad avere un andamento non accettabile ancora, ma insomma non preoccupante. Qui siamo tornati rapidamente da 280 a 360 oggi, cioè 80 punti in una settimana, è il livello più alto da fine febbraio. Praticamente è salito tra l'altro il rendimento delle nostre obbligazioni dopo che è andata male l'asta in Spagna, perché il mercato tende spesso a associare quello che capita in Spagna con quello che potrebbe capitare in Italia, e tra l'altro abbiamo la differenza tra i bonus spagnoli e i bund tedeschi è a 375 punti, quindi lo spread spagnolo, e il nostro appunto 360. Come se non bastasse, il Wall Street Journal oggi e anche il Financial Times, il quotidiano principale britannico per quello che riguarda il Financial Times, è il principale quotidiano economico finanziario americano per quello che riguarda il Wall Street Journal, hanno detto: attenzione, è finita la luna di miele del governo tecnico di Monti, le misure di austerity varate, quindi l'austerità varata dall'Italia, creano rischi per l'economia perché stanno arrestando lo sviluppo dell'attività economica. Il Financial Times nello specifico dice: attenzione, è finita la luna di miele del governo tecnico di Mario Monti per vari motivi, tra cui l'effetto dell'aumento delle tasse, ma anche lo scontro sull'articolo 18. Insomma, è interessante vedere che il Wall Street Journal, che è la Bibbia del capitalismo anglosassone, dice: l'austerità che il governo sta varando, se resta solo austerità, se non ci sono altre misure aggiuntive, rischia di bloccare l'attività economica. Questo viene detto dall'America, dovrebbero leggere Wall Street Journal anche i tedeschi oggi, perché io ancora non ho capito, ma è colpa mia, come farà l'Europa del Sud a ripartire, quindi a ripagare i suoi debiti, a migliorare il deficit, se è tutto in calo l'andamento, e quindi in calo l'andamento per quello che riguarda l'attività economica in Portogallo, in Spagna e anche in Italia. L'austerità rischia di creare solo recessione in questo momento. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Chiaramente ci occuperemo della Banca Centrale, dei rischi sull'Europa e anche delle dimissioni, o meglio, delle dimissioni del comitato che doveva andare ad analizzare i costi della politica degli altri paesi per trovare un riferimento per i costi della politica italiana, presieduta dal presidente dell'Istat Giovannini. Si è dimesso, ha detto che la Commissione non ce la fa con questo metodo a fornire un calcolo di quanto dovrebbe costare la politica italiana. È impossibile paragonare sostanzialmente quelle che sono i costi delle nostre authority, Senato, varie istituzioni ed enti, con quelli di altri paesi, perché in altri paesi non esistono proprio. 9 su 30 esistono, ma altre 21 tra commissioni, autorità e quant'altro non esistono, e quindi è impossibile trovare un riferimento oggettivo per capire quanto deve costare la nostra politica. Ne parleremo con chi è appunto dato il presidente della commissione che si è autosospesa oggi, ossia il presidente dell'Istat Giovannini. La borsa, dicevo, pesante il calo questa volta anche nel resto d'Europa: meno 2,70% a Parigi, meno 2,80% a Francoforte, meno 2,30% a Londra, meno 2,20% a Milano. Chiaramente la notizia spagnola è quella che sta pesando sui mercati. Io non voglio mandare un gufo oggi, perché insomma, però attenzione, è una notizia pesante, perché il fatto che la Spagna non sia riuscita a recuperare, a trovare tutti i compratori per il suo debito, qualche allarme lo crea. E l'unico titolo positivo è di Assol in più 0,36%, il resto è una giornata in cui c'è poco da festeggiare. Finmeccanica perde il 7%, Mediolanum il 6, Media 7 il 5,5%, Banco Popolare perde il 5, Estima Electronics il 4,80, come Salvatore Ferragamo il 4,30, Pirelli il 4,35, l'Opea de Prismian il 4,20, Exor, ma anche la Pop Milano il 4%, il calo di Fiat e di Buzzi Unicem il 3,60, quello di Luxottica il 3,40, quello di Autogrill e di Atlantia il 3,30, quello di Fiat Industrial e A2A il 3%, il calo di UbiBanca, ma anche di Azimut il 2,90, quello del Monte dei Paschi il 2,70, perde Unicredit e Mediobanca il 2,5, Saipem, ma anche la Popolare Emilia Romagna. Euro in indebolimento a quota 1,3126. Segnalo tra le altre notizie in breve che l'oro è in calo a 1640 dollari l'oncia, il petrolio è in calo a 102 dollari al barile. Tra poco parleremo del Banca Centrale Europea, lo dico a chi sta scrivendo al 3 49 238 6666. Anche delle novità sull'articolo 18 parliamo tra un attimo. Sul fronte bancario segnalo però le dichiarazioni del presidente dell'ABI Giuseppe Mussari. Dice: l'industria bancaria italiana non guadagna il giusto e rischia di cambiare natura ed essere fagocitata dall'esterno, con grave nocumento per l'economia nazionale. Abbiamo assicurato sostegno a imprese e famiglie. Sì, non ho capito se parlasse del Monte dei Paschi o dell'industria bancaria italiana in generale, ma l'articolo 18, allora, conferenza stampa ancora in corso del ministro Fornero, se ho ben visto, sì, ancora in corso, e dopo l'intervento del presidente del Consiglio Mario Monti. Il ministro Fornero, anzi, Mario Monti ha detto: attenzione, già ieri in serata, dopo il vertice di maggioranza, il presidente del Consiglio aveva aperto alle modifiche, soprattutto sull'articolo 18. PD, PDL e Terzo Polo hanno parlato di una trattativa sull'articolo 18 che dovrebbe portare a una maggiore flessibilità a favore delle aziende per le assunzioni, bilanciata da una maggiore flessibilità dei lavoratori in uscita. Sembra che sia intervenuto anche il Presidente della Repubblica Napolitano con una forma di moral suasion nei confronti di Mario Monti. Cosa ha detto Monti poco fa? Ha detto che la riforma ha un rilievo storico per l'Italia, è una riforma fatta per la crescita e per il lavoro, è inclusiva, creerà maggiore occupazione ed è una riforma per ridurre la disoccupazione. Ha anche parlato di un dualismo perverso nel mercato del lavoro italiano, con una parte dei lavoratori che hanno tutte le protezioni e un'altra parte senza alcuna protezione. Un aspetto che ci sta particolarmente a cuore sottolineare è che la riforma permette di contrastare il dualismo del mercato del lavoro italiano, favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, preservando al contempo la flessibilità virtuosa e limitando la precarizzazione per i giovani e per le categorie più deboli. L'aspetto di dualismo del mercato del lavoro italiano è stato da tempo all'attenzione come l'aspetto probabilmente più perverso. Ministro Fornero sta parlando, ha detto che la flessibilità non è sempre stata ben usata, c'è stato un dialogo sincero con le parti sociali, abbiamo scelto la via del dialogo e della consultazione, non della concertazione. Le novità le avete lette in alcuni casi, vedremo poi se tutto confermate, licenziamento economico in alcune situazioni tipizzate per legge, il giudice potrà decidere anche il reintegro, all'inizio invece il licenziamento economico era solo da pagare in mensilità, diversamente sempre in caso di licenziamento illegittimo scatta l'indennizzo a 15-27 mensilità, però prima del ricorso al giudice è previsto il preventivo ricorso, una rapida procedura di conciliazione, cioè vedere se si riesce a mettere d'accordo dipendente con l'azienda. Il licenziamento disciplinare invece, se il fatto non sussiste, il giudice condanna al reintegro. Negli altri casi di illegittimità ci può essere un indennizzo tra 15 e 27 mensilità. E poi c'è il licenziamento discriminatorio, confermata la possibilità di reintegro deciso dal giudice. Però una nota congiunta di ABI, quindi Banca Italiana, Alleanza delle Cooperative Italiane, ANIA e Confindustria ha detto che le modifiche all'articolo 18 sono inaccettabili per il mondo delle imprese se confermate, in particolare la diversa disciplina per i licenziamenti di natura economica è quella che va complessivamente configurandosi per i contratti a termine, specie per quelli aventi carattere stagionale. La Banca d'Italia nel frattempo oggi fa sapere che il reddito delle famiglie italiane in due anni è calato del 4% dal 2008 al 2009, meno 4% a fronte di una riduzione del PIL del meno 6%, lo ha chiarito il vice direttore di Banca d'Italia Anna Maria Tarantola nel suo intervento a un convegno a Genova e poi ha detto attenzione, è illusorio che, sì, vabbè, prima la notizia e poi il commento, è illusorio immaginare che arrivi più credito dalle banche, alle imprese, alle famiglie grazie ai finanziamenti che la Banca Centrale Europea ha dato alle banche anche italiane. Perché dice questo la Banca d'Italia? Perché dice che i finanziamenti che Mario Draghi ha dato, cioè stiamo parlando di 1.000 miliardi di euro di cui 250 miliardi alle banche italiane, andavano e sono andati a compensare il venir meno di un calo della raccolta delle banche, quindi hanno semplicemente compensato il calo della raccolta ed ecco perché era illusorio pensare che avrebbero fatto aumentare il credito alle imprese, hanno invece contribuito a frenare la riduzione di credito, non aumentare il credito ma a rallentare la diminuzione del credito. Tutto bene, è un ragionamento che non fa una piega, bastava dirlo prima, perché anche il presidente della BCE più volte, Mario Draghi, ha detto adesso è il momento in cui le banche devono girare parte di questi soldi dell'economia. Mo scopriamo che era illusorio, ci siamo illusi, meglio tardi che mai, a saperlo prima. E prima di andare a Francoforte, quindi parlare della Banca Centrale Europea, andiamo a Cuneo. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Perché a Cuneo? Perché a Cuneo sono 600 i cittadini che aspirano a fare il consigliere comunale su una popolazione di 60.000 anime. Ora, un candidato ogni 100 cunesi, poi dicono che la politica è in crisi, che la politica non è più attraente, che nessuno vuole fare politica, come no? A Cuneo 600 cittadini vogliono fare il consigliere comunale, uno ogni 100, ma non c'è mica solo Cuneo, ci sono 27 liste comunali alla Spezia, 16 candidati per la poltrona di sindaco ad Alessandria, 850 aspiranti consiglieri a Catanzaro, 1300 a Palermo, anche qui delle due l'una, o la politica fa schifo, è una casta, oppure invece è bella e ci sono tutti questi aspiranti. Non vorrei che fosse una cosa un po' italiana che si sputa poi nel piatto in cui si mangia. Insomma, 1300 aspiranti consiglieri comunali a Palermo, 850 a Catanzaro, 600 a Cuneo, la dicono lunga, eh? Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Allora, ha tagliato in due una costosissima Maserati, risultata poi rubata, sapete, perché ha asportato tutti i pezzi idonei ad essere immessi sul mercato clandestino. Sembrerebbe un furto normale, no? Normale non lo so, ma insomma, un classico furto di auto. In realtà, quando è stato scoperto dalle forze dell'ordine, ha ammesso la ricettazione dell'auto, aggiungendo però che con i soldi ricavati dalla vendita dei pezzi avrebbe acquistato le uova da Pasqua per i figli. L'uomo è un 41enne di Colle Corvino, denunciato per ricettazione dai carabinieri, e insomma sono arrivati a lui gli investigatori scoprendo, partendo da quello che restava dell'auto. Beh, insomma, ricettare una Maserati per comprare l'uovo da Pasqua per i figli, eh? E vabbè, andiamo a Francoforte, tassi invariati all'1%, la Banca Centrale Europea ha seguito quella che era la decisione ampiamente attesa da parte del mercato, però Mario Draghi ha anche aggiunto che non si è discusso di un cambio dei tassi di interesse, l'inflazione sarà ancora sopra il 2% nel 2012, la ripresa è moderata, quella prevista per il 2012. Attenzione, persistono rischi al ribasso per l'economia. Based on our regular economic and monetary analysis. Sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Le informazioni disponibili da inizio marzo confermano ampiamente la nostra visione. L'inflazione dell'area euro dovrebbe mantenersi al di sopra del 2% durante il 2012, mentre prevalgono i rischi al rialzo. Ma sul medio periodo ci aspettiamo che l'inflazione proceda a un calmieramento riportandosi in linea con i livelli obiettivo. In questo quadro la BCE intende garantire un solido ancoraggio delle attese sui prezzi. Per ciò che riguarda l'attività economica, gli indicatori si sono stabilizzati a livelli bassi in questo inizio 2012 e una moderata ripresa è attesa nel corso dell'anno. In ogni caso il quadro resta soggetto ancora a rischi al ribasso. To downside risks. Nel frattempo vedo che il ministro Fornero continua a parlare, io licenziata, lo decidono gli italiani, è la risposta alla battuta di Angeletti ieri che ha detto bisognerebbe applicare l'articolo 18 per il ministro Fornero. Sì, allora quella era una battuta, per carità, decidano gli italiani, ma no, nel senso che questo governo non è stato eletto, però è un governo tecnico, decide il Parlamento. Gli italiani hanno votato già un Parlamento a suo tempo, attenzione. Gli italiani non decidono se resta il ministro Fornero. Nel frattempo il DL fiscale ha ottenuto la fiducia al Senato. Noi restiamo su Francoforte. Beda Romano, corrispondente sulle 24 ore. Buonasera. Buonasera. Allora Beda, Draghi ha chiarito che la ripresa è moderata, che se ne vedrà poca, in Italia niente, che i tassi non si cambiano. Stavo leggendo, non so se tu eri già in collegamento, le dichiarazioni però della Banca d'Italia di oggi, della vice direttrice Anna Maria Tarantola, che ha detto, attenzione, era illusorio pensare che dal, dai finanziamenti che la BCE ha dato alle banche europee, 1.000 miliardi in tutto, arrivasse più liquidità per le imprese e per le famiglie, perché sono andati solo a ripianare la mancanza, la raccolta bassa. È tornato sul tema Mario Draghi, perché qua l'opinione pubblica si interroga moltissimo su che fine hanno fatto questi finanziamenti della BCE. Ma la Banca Centrale Europea, ma anche la Commissione Europea, è convinta che questi finanziamenti a lungo termine stiano aiutando l'economia. E lo notano per il fatto che a partecipare alle aste a lunghissimo termine, che sono aste a 3 anni, non sono soltanto le grandi banche nazionali e le grandi banche europee. Rispetto al passato vi è un numero crescente di piccole banche locali che in realtà, secondo le autorità monetarie, stanno utilizzando il denaro anche per aiutare l'economia. Allora, evidentemente da un punto di vista anedotico i segnali non sono ancora in quella direzione, ma forse è questione di tempo e forse la Banca Centrale ha il polso della situazione più veritiero di quanto non ce l'abbiamo noi. E cioè crediamo alla Banca Centrale quando fa notare che questi soldi, come tu ricordavi, non li hanno presi solo i grandi istituti, le grandi banche, ma anche, penso in Germania, 460 banche in tutto, tra cui anche molte casse di risparmio, piccole banche. Tu dici, a questo punto, se li hanno presi anche loro, è più facile che poi una ricaduta positiva sull'economia vi sarà. Si è discusso invece del dato abbastanza preoccupante dell'asta spagnola di oggi, cioè la Spagna non è riuscita a trovare tutti i finanziatori che voleva per il suo debito, è riuscita a collocare solo 2 miliardi e 6 di vari bot BTP contro i 3,5 che avrebbe voluto collocare. Sì, la Spagna sta preoccupando non poco, perché c'è il timore che il governo Rajoy non riesca a introdurre le misure necessarie per risanare i conti pubblici e per raggiungere i due obiettivi che si è dato anche a livello europeo, un deficit del 5,3% quest'anno e del 3% l'anno prossimo. E sia a Bruxelles che a Francoforte fanno notare che mentre il primo ministro italiano Mario Monti ha cercato di spiegare all'opinione pubblica nazionale e ai suoi partner europei quale sarebbe stato esattamente il percorso di politica economica del suo governo, il primo ministro spagnolo è stato molto più indeciso e molto più vago. E c'è quindi una doppia preoccupazione, c'è una preoccupazione sulla sostanza della sua politica economica e c'è anche una preoccupazione sulla forma, sulla sua capacità a spiegare sia all'opinione pubblica nazionale che ai partner europei quello che intende fare. La Spagna ha presentato ieri il progetto di bilancio per il 2012, che era molto atteso, ha trasmesso tutte le carte alla Commissione europea, che le ha ricevute ieri, e la Commissione oggi ha spiegato pubblicamente che le sta analizzando. Ha anche spiegato che il governo spagnolo ha trasmesso così tante carte, così tanti numeri, che ci vorrà tempo per capire esattamente come sono le cose. E questo per quello che riguarda la Spagna, a cui purtroppo l'Italia, anche se il nostro spread è tuttora più basso di quello spagnolo, è legata, perché insomma il gioco è una frase un po' grossa, ma è sempre quello, si va poi, se la Spagna ha un problema si associa all'Italia, e quindi anche l'Italia, come abbiamo visto con gli spread, ha un problema di riflesso. Un'ultima domanda che ho per te, Beda Romano, riguarda invece, prendo spunto da quanto tu ricordavi sull'opinione che ha la BCE di Mario Monti, però oggi sia Wall Street Journal che il Financial Times hanno detto: è finita la luna di miele degli italiani con Monti. Vabbè. Ma soprattutto, e qui è il Wall Street Journal, attenzione, perché le misure di austerità che il governo Monti ha messo in campo stanno creando rischi per l'economia italiana, cioè stanno arrestando lo sviluppo delle attività economiche, che è una critica, tra virgolette, che si può fare non solo in Italia, ma anche in Spagna, in Portogallo, lasciamo stare la Grecia. E cioè a dire, tutti questi aumenti di tasse, tagli nella spesa, va bene, aumenti nell'età pensionabile, poi comprimono i consumi, la gente spende meno, non ha i soldi da spendere, non ci sono politiche per la crescita, rischiate di bloccare l'economia con un conseguente peggioramento del deficit, perché il deficit non è un dato netto, è sul PIL, è un rapporto sul PIL, e anche del debito. Mario Draghi ha detto che per ora parlare di exit strategy è un po' dura, cioè di strategie di uscita. Sentiamo questo passaggio. We have to assess month by month the outlook for price stability. Dobbiamo analizzare mese per mese lo scenario relativo alla stabilità dei prezzi. Questo è quello che si deve fare. La situazione attuale presenta sul versante dei prezzi pressioni inflazionistiche derivanti da un aumento del prezzo del petrolio e delle tasse indirette nel breve termine. Inoltre, vista la condizione sia della crescita economica che l'elevata disoccupazione ai massimi storici, credo sia altamente prematura qualsiasi discussione circa eventuali exit strategy. Allora, Beda, mettiamola così. La manovra correttiva in Italia andava fatta, abbiamo visto subito quanto ha migliorato il nostro spread, piaccia o non piaccia, ma è sceso di 200 punti, e quanto consenso abbia ricevuto a livello internazionale. Però da più parti, anche dall'America, si dice attenzione, senza iniziative per la crescita qua la cura da cavallo rischia di ammazzare il cavallo. Questa preoccupazione è presente anche dentro la Banca Centrale Europea, più o meno informalmente? Ma credo che sia presente in tutte le istituzioni europee. Negli ultimi 2-3 giorni il problema si è posto in modo evidente. Si è posto in modo evidente e molti a questo punto si chiedono se la strategia europea, che si basa su due pilastri. La strategia tedesca. È il risanamento dei conti pubblici e il secondo pilastro è la crescita economica. Allora, questa strategia è drammaticamente in forse in questo momento, lo abbiamo visto con i dati di disoccupazione che sono cresciuti moltissimo in vari paesi europei. Il problema è che questa contraddizione è connaturata con l'unione monetaria. Mi spiego meglio, fin tanto che l'unione monetaria è un'unione tra stati sovrani, dove i bilanci nazionali sono responsabilità dei governi, i mercati continueranno a fare il confronto fra i vari bilanci nazionali e continueranno a fare un confronto fra i vari spread e fra i vari tassi di interesse. In questo senso l'austerità è inevitabile e indispensabile per i paesi che sono più a rischio, come la Spagna e l'Italia, ma è una politica evidentemente, a causa della situazione economica, particolarmente onerosa e particolarmente rischiosa. Allora, si può uscire da questo dilemma con un bilancio unico, con un salto politico verso un'unione federale. Capito. Il problema è che ci vorranno anni. In questo momento particolarmente difficile. Per nel salutarti, Beda, però, visto che tu fai corrispondente da Francoforte, hai fatto corrispondente da Francoforte, adesso sei a Bruxelles, però... la sensazione che di soli tagli, cioè che i tagli siano necessari, ma rischino anche di ammazzare il cavallo se non c'è un po' di antibiotico, di qualcos'altro, di vitamine oltre antibiotico. Si sta generando anche in Germania, oppure la Germania continua a ritenere che l'unica linea sia il fiscal compact, quindi l'armonizzazione dei debiti, dei deficit dei vari paesi che compongono l'area euro? C'è un doppio problema con la Germania. Il primo problema con la Germania è che evidentemente ha bisogno di rigore, crede nel risanamento dei conti, perché è convinta che se non ci fosse risanamento dei conti, lei verrebbe in un modo o nell'altro chiamata a pagare per gli errori degli altri paesi. Primo aspetto. Secondo aspetto, molto più generale e per certi versi molto più urgente, la Germania non ha in questo momento il problema della stragrande maggioranza dei paesi monetaria. Certo. È un paese che continua a crescere, è un paese che ha una disoccupazione che è al 5%, è un paese che rischia il surriscaldamento e per il quale i tassi di interesse attuali all'1% sono troppo bassi. Ma è l'Europa che si sta staccando dalla Germania o la Germania che si sta staccando dall'Europa, Beda? niente male come domanda. Ogni tanto dei guizzi. Ho l'impressione che ci siano, che ci sia il tentativo da parte dei paesi più in crisi di riavvicinarsi alla Germania. Ma come spiegavo prima, c'è una contraddizione al cuore del modo in cui l'unione monetaria è in questo momento formata. E stiamo attraversando un momento particolarmente difficile, perché abbiamo parlato molto spesso di divergenze tra le economie nazionali. Sì. Oggi queste divergenze sono molto più attuali e molto più gravi. Possiamo girarla e girarci attorno, ma la Germania sta vivendo una situazione economica così florida che quando sente i racconti di quello che capita in Italia, che capita in Italia, in Spagna, ma anche in Francia, è un altro pianeta. Ecco perché ho fatto la battuta: ma è l'Europa che si stacca dalla Germania o la Germania che si stacca dall'Europa? Per cui sì, uno può immaginare che se continua così, se va a fondo l'Italia, se va a fondo la Spagna, se va a fondo la Francia, la Germania non esporta più neanche uno spillo in Europa. Però per loro, vista da chi ha i tassi reali sotto zero, quindi ti conviene prendere soldi in prestito, banche che concedono credito perché appunto non hanno problemi, non hanno lo spread, o meglio, ce l'hanno a zero. È ovvio che tutto diventa molto molto futuribile e poco concreto, per cui i tedeschi continuano a dire: non vogliamo pagare noi eventuali errori, qua devono fare riforme, devono mettere i conti in ordine. Abbiamo fatto notare più volte che la riunificazione tedesca fu avallata da tutti i paesi dell'area europea e costò 1.600 miliardi. La Germania dimentica questo un po' troppo facilmente. Ci fu un periodo in cui anche la Germania non riusciva a tenere i conti sotto controllo, fu il primo paese a violare il trattato di Maastricht sul deficit al 3% assieme alla Francia, e l'allora governo Berlusconi, il secondo, con il ministro Tremonti, fece un'operazione anche, diciamo, di comprensione, di scambio, di doubt desk, chiamate come volete, perché non infierì, non chiese che si applicassero subito le sanzioni, perché la Germania fu il primo paese a sfondare il tetto del 3%. Ecco, un po' più di memoria storica dovrebbero avere i tedeschi. Su questo, detto ciò, a borsa. La borsa che è meno 2,40 a Milano, meno 2,70 a Francoforte. Qui mi sembra di poter dire che l'asta spagnola pesi tanto, tutti gli spread in aumento, il nostro è tornato a 360 e poi è sceso a 350, la Spagna è riuscita a collocare solo parte del suo debito. Facciamo come sempre il collegamento con i colleghi di Radio Cori, Sole 24 Ore. Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Dicevamo la Spagna, timori sull'Eurozona, una banca centrale americana cauta anche sulla crescita americana, tanto quanto la banca centrale europea è cauta sulla crescita europea. Risultato, in attesa del Ponte Pasquale, si vende. Sì, esattamente. Sicuramente in Europa ha pesato molto l'andamento dell'asta spagnola con i tassi in deciso rialzo e di conseguenza anche gli spread tra i titoli decennali spagnoli e i bund tedeschi, a cui è seguito un allargamento di tutti gli spread dei paesi periferici dell'Eurozona, hanno pesato tantissimo. Inoltre, come ricordavi tu, i commenti della BCE che prevede che la ripresa economica nel 2010 si attesti a un livello comunque basso e che prevalgano i rischi di un peggioramento economico rispetto a quelli per un'accelerazione della crescita, hanno continuato a pesare. Quanto alla Fed, diciamo che quello che ha pesato soprattutto è che ormai il mercato esclude che la banca centrale americana possa varare un nuovo ciclo di allentamento della politica monetaria attraverso le misure quantitative come fatto in passato, quindi ad esempio acquistando bond. Gli ultimi commenti sono stati desunti dai verbali dell'ultima riunione, diciamo che appunto fanno pensare che i vertici della Federal Reserve escluda un nuovo intervento di questo tipo, e quindi oggi il mercato ha risentito anche di questo fattore. Finmeccanica, se vogliamo, ma soprattutto Mediolanum meno 6, media 7 meno 5, 30. Diciamo che Finmeccanica, avendo corso molto in questi giorni, ci può stare anche un po' di vendita, un po' di realizzi. Sì, diciamo che oggi è soprattutto una questione legata ai settori, il settore industriale sempre più legati alla congiuntura, oggi ha perso molto terreno, anche perché di recente, nelle ultime settimane, alcuni titoli avevano recuperato, e appunto i timori sull'andamento dell'economia hanno spinto al ribasso tutto il comparto. A livello europeo il sottoindice ha ceduto il 3%, e quindi anche a Piazza Affari tutti i principali titoli, a partire appunto da Finmeccanica che ha perso quasi il 7%, ma anche Fiat, che nonostante i dati positivi sulle immatricolazioni di Chrysler negli Stati Uniti e anche un calo inferiore a quello del mercato per quanto riguarda il Brasile. Oggi appunto il titolo Fiat ha perso il 4,6% nel giorno in cui a Torino si è tenuta l'assemblea degli azionisti, e anche Fiat Industria ha lasciato sul terreno il 3,4%. Sì, su Fiat Sergio Marchione ha detto con Chrysler puntiamo a vendere tra 4 milioni e 4 milioni e 400 mila auto nel mondo. Quest'anno sono previsti 19 nuovi modelli e aggiornamenti. Sempre su Fiat ha aggiunto Marchione, abbiamo confermato gli obiettivi del 2012, i ricavi andranno a 77 miliardi e poi spetta all'Italia decidere se vuole fare parte del nostro progetto. Grazie all'alleanza Fiat Chrysler, ha detto, l'Italia ha la grande occasione di rientrare in un disegno globale, beneficiando della possibilità di esportare in mercati extraeuropei. Questa però è una scelta che non possiamo fare noi per l'Italia. Gli strumenti ci sono, la nostra volontà anche, ora dipende solo dall'Italia, soprattutto dalle forze sociali, se metterli a frutto. E al Paese chiediamo rispetto reciproco. C'è qualcosa che mi sfugge in questo ragionamento di Marchionne, lo dico col massimo rispetto. Parla come se lui non fosse italiano. È vero che ha la residenza in Svizzera ed è italo-canadese, cioè, ma la Fiat è Italia, cioè, sembra quasi che sia un gruppo straniero che dice spetta l'Italia a decidere se ci vuole qua oppure no. Insomma, anche dal punto di vista linguistico, nel senso, al Paese non è una scelta che possiamo fare noi per l'Italia, gli strumenti ci sono, dipende dall'Italia se metterli in frutto. Sì, cioè, dipende da tutti noi. La Fiat è una grandissima impresa di questo paese, fa parte a pieno titolo di questo paese, cioè non c'è un dualismo Italia versus Fiat. Questa cosa Marchionne la deve anche capire, perché sennò continuiamo a creare contrapposizioni. Fiat e Italia sono, la Fiat è una piccola parte secondo me dell'Italia, non capisco il dualismo. Sentiamo Marchionne. Spetta al paese decidere se vuole fare parte di questo progetto, gli strumenti ci sono, la nostra volontà anche. Ora dipende solo dall'Italia, soprattutto dalle forze sociali, se metterli a frutto. Noi abbiamo cercato di creare tutte le condizioni per farlo e abbiamo trovato un ampio consenso dai sindacati e dalla stragrande maggioranza dei nostri lavoratori. Ma ci sono ancora antagonisti che per ragioni a noi incomprensibili stanno facendo di tutto per ostacolare il nostro progetto. Se queste forze esterne riusciranno a impedire che venga realizzato, non ci resterà che prenderne atto. Non saremo noi a quel punto i responsabili delle conseguenze. Vabbè, continuo a non capire, e lo dico con massimo rispetto, perché Marchionne parli di Fiat e di Italia come due soggetti diversi, come due soggetti che dialogano, possono decidere di stare assieme o no. Secondo me la Fiat è Italia, non si può dire che l'Italia sia la Fiat, questo no. Vabbè, Paolo Paronetto, i titoli. Titoli Fiat, abbiamo già detto l'andamento, meno 4,60, sì, certo. Meno 4,58 il titolo dell'SPA e meno 3,42 il titolo di Fiat Industria, mentre l'azionista di riferimento Exor ha ceduto il 4,42%. Due risposte agli ascoltatori, c'è chi dice avete citato poco lo spread a 360, abbiamo fatto tutta l'apertura sulla Banca Centrale Europea, sull'allarme che lancia Wall Street Journal, sui bonus spagnoli, abbiate pazienza, ma dove eravate? E ancora chi dice lei sulla Germania sta dicendo una marea di cavolate. Se mi scrive perché, volentieri, detta così non la capisco. Andiamo avanti con i titoli invece, Paolo, e per quello che riguarda altri settori, Mediaset meno 5,27%. Sì, per quanto riguarda Mediaset diciamo che è in trend negativo dalla pubblicazione dei conti 2011, che è stata il 20 marzo, da allora il titolo ha perso quasi il 20%, di ieri la notizia dell'uscita definitiva di Mediaset da Endemol, un'avventura che è costata alle casse del gruppo circa 500 milioni, ieri il titolo aveva limitato i danni chiudendo in lieve ribasso, oggi sono tornate le vendite e il titolo ha perso il 5,27% chiudendo a 1,5 1,92 euro, diciamo che non è più così lontano il minimo storico che è stato toccato a 1,84 euro il 23 novembre scorso, subito dopo la caduta, le dimissioni di Silvio Berlusconi da Presidente del Consiglio. E tornando un attimo alla questione spread, come ricordavi anche tu prima, ne ha risentito ovviamente tutto il settore bancario, che oggi è stato tra i più venduti a livello europeo, ha perso oltre il 2%, anche a Piazza Affari molto male, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare e tutti i titoli del settore. Ancora in corso la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Monti e del Ministro Fornero. Stanno rispondendo alle domande dei giornalisti, abbiamo ascoltato anche alcuni passaggi principali, tra l'altro su questo mi sembra che la frase più forte sia anche quella di Mario Monti, che con la maggioranza che mantiene il governo c'è stata una condivisione anche sui dettagli, e poi il ministro Fornero ha ribadito che la riforma è un guadagno netto per la collettività. Che il disegno di legge esiste, lo abbiamo trasmesso al Quirinale, e che una delle riforme positive di questa riforma complessiva del mercato del lavoro riguarderà anche le dimissioni in bianco, che erano una barbarie definite dal ministro Fornero. Il confronto aspro, ma si è cercata una prospettiva. La delega sulla pubblica amministrazione, quindi il fatto che la riforma del mercato del lavoro si applichi anche ai dipendenti della pubblica amministrazione, non è inserita nel disegno di legge, verrà inserita in seguito, e il ministro della pubblica amministrazione Patroni Griffi ha chiesto un periodo di confronto con i sindacati prima di inserirla al posto dell'attuale articolo 2 del testo. Il contratto a tempo indeterminato sarà la formula prevalente. La modifica dell'articolo 18 è una modifica equilibrata, il lavoratore non è più blindato al posto di lavoro. Non inchiodare il lavoratore al posto di lavoro, così ha detto il ministro Fornero. Fino adesso c'è stata una flessibilità male utilizzata. L'articolo 18 è stata una grande conquista, ma il mondo è cambiato. Di tutte le novità presenti di questa manovra parlerà domani il Sole 24 Ore, dedicando numerose pagine al vero e proprio speciale, diremmo noi in radio, alla riforma. Mauro Pizzin, collega del Sole 24 Ore, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera a te. Domani che cosa avrete sul giornale? Ma noi praticamente dedicheremo, come era logico, un'intera sezione di primo piano alla riforma del mercato del lavoro, di cui, come sai, stiamo ancora attendendo peraltro il testo, che in questo momento è valutato dal Presidente della Repubblica. Certamente aspetteremo il testo definitivo, speriamo che arrivi in serata. Comunque ti posso anticipare che noi sicuramente, come in altre circostanze, dedicheremo 2 pagine ad un'analisi, ad un rating su tutti i provvedimenti della riforma, in cui con gli esperti del Sole 24 Ore cercheranno di dare una valutazione ai provvedimenti presi dal governo. Ovviamente non dimenticheremo la giornata politica, e quindi reazioni e controreazioni, diciamo, rispetto a questa stessa conferenza stampa. Dopodiché ci tenteremo di fare, come abbiamo fatto già alcune settimane fa, di dare ai nostri lettori la possibilità di consultare con l'ausilio della grafica un quadro complessivo delle flessibilità in entrata e in uscita, uno strumento che la volta scorsa è stato molto apprezzato dai lettori. 20 pagine quindi? Sì. Uno speciale 16 più ampliabile, certo. Esatto, più il resto. Domani su Sole 24 Ore, grazie al collega del Sole 24 Ore Mauro Pizzin. E adesso do anche qualche risposta però agli ascoltatori al 349-238-6666 prima di passare al prossimo tema. Rapidamente su Fiat e Marchionne. Allora, molti di voi dicono: ma insomma, la Fiat è un'azienda privata, una multinazionale, Marchionne ha ragione nel dire: se l'Italia ci vuole restiamo, se no ce ne andiamo. Due obiezioni, se permettete. Primo, questo ragionamento Marchionne l'ha già fatto 2 anni fa e ha spiegato che con una modifica degli accordi di lavoro, dei contratti di lavoro, la Fiat avrebbe investito. Allora, le modifiche, l'accordo l'hanno firmato, non la FIOM, gli altri sindacati l'hanno firmato, adesso si tratta di vedere quali sono gli investimenti. Non è che possiamo ogni volta rinegoziare la presenza della Fiat in Italia come se fosse, diciamo, quasi una concessione. Secondo aspetto, scrivono altri ascoltatori e hanno ragione secondo me, ma vi immaginate se la Renault o la Peugeot, oppure un gruppo Peugeot che ha appena fatto l'accordo con General Motors, dicesse alla Francia: beh, se ci volete restiamo, se ci sono le condizioni restiamo, se no vuol dire che non ci volete e ce ne andiamo. Sarebbe inimmaginabile, ma la stessa Volkswagen in Germania, lo dico solo perché ci cita sempre l'Europa. Terzo aspetto, ma quando la Fiat fu salvata dalle banche italiane, Capitalia, Unicredito, Intesa e Monte dei Paschi, i soldi delle banche italiane erano i soldi dei risparmiatori italiani, ok? Quel prestito convertendo da 3 miliardi, è vero che non c'era Marchionne, ma sempre la Fiat era. Allora non si può dire adesso improvvisamente che l'Italia è come il Brasile, come la Serbia, come la Polonia, semplicemente un luogo di produzione venta per la Fiat e null'altro. Mi sembra un po' forzata come analisi anche storica. Detto ciò, mentre si chiede agli italiani di sacrificarsi con le tasse, con l'IMU, tra l'altro l'IMU, l'esonero, l'esenzione dell'IMU per le fondazioni bancarie, secondo me non sta in piedi, lo dico molto chiaramente a chi scrive. Mario Monti ha detto: ma sono fondazioni come le Onlus, la fondazione bancaria. Vabbè. E quindi è sbagliata, a mio avviso, l'esenzione IMU per le fondazioni bancarie. Dicevo, mentre si chiedono sacrifici agli italiani in ogni forma, non si riesce e non si riescono a tagliare i costi della politica. La commissione incaricata di effettuare i confronti con gli altri paesi per stabilire quanto dovesse costare la politica, intesa come Senato, ma anche come commissione parlamentare, come autorità di vigilanza, come provincia, come comune, si è arresa, ha dato forfè, ha gettato la spugna. Sì, costi della politica, sapete che ce ne occupiamo molto della politica non solo romana ma anche della politica a livello di amministrazioni locali, e la notizia appunto è che la commissione che era stata creata per accertare i costi della politica e trovare anche poi dei livelli standard paragonandoli con i costi di altri paesi, beh, la commissione ha rimesso il mandato. Le agenzie hanno scritto: ha rimesso il mandato il presidente della commissione, che è anche il presidente dell'Istat. Non è esattamente così, ma giro la domanda subito al presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. Buonasera, presidente. Buonasera. Se ho ben capito, è la commissione che ha rimesso il mandato al governo, composta da 5 membri. Lei non può dimettersi, perché dovrebbe dimettersi anche dall'Istat, come presidente dell'Istat a quel punto? Sì, esattamente, perché la legge di costituzione della Commissione prevede che essa sia presieduta dal Presidente dell'Istat, mentre gli altri membri erano stati nominati con un decreto del Governo. Quindi perché il Presidente dell'Istat possa dimettersi, o cambia la normativa oppure il Presidente deve restare al suo posto. Al di là, diciamo, di queste tecnicalità, però insomma, il messaggio è chiaro: la Commissione che doveva andare a studiare i costi della politica, paragonarli al resto d'Europa, dell'area euro, e trovare poi degli standard, dei benchmark, diremmo, per capire come e quanto deve costare la politica in Italia, non ce l'ha fatta. Allora, mi può spiegare in primo luogo di fronte a cosa vi siete arresi? Non ci siamo arresi, abbiamo semplicemente stabilito, attraverso appunto vari mesi di lavoro, che in primo luogo la legge ipotizzava una quasi perfetta corrispondenza tra l'organizzazione dello Stato italiano e l'organizzazione di altri 6 paesi europei. Mi spiego: tra i 30 enti, e pensiamo al Senato, che è un ente conosciuto, un'istituzione conosciuta da tutti, e 30 enti tra cui appunto gli organi costituzionali, le authority, delle agenzie e così via, soltanto 9 di questi sono presenti in tutti gli altri 6 paesi che abbiamo considerato, cioè Francia, Germania, Spagna, Olanda, Belgio, Austria. Anche il Senato non esiste negli altri paesi come esiste in Italia, perché in altri paesi i senatori non sono eletti dal popolo e quindi, ad esempio, ricevono un'indennità molto ridotta, che però si aggiunge agli stipendi che prendono, ad esempio, come rappresentanti delle regioni nei consigli regionali e così via. Quindi la prima difficoltà è stata l'eterogeneità. Secondo aspetto, anche per quei 9 quelle nuove istituzioni per cui teoricamente avremmo potuto fare il calcolo, abbiamo ricevuto pochi dati, ad esempio alcuni paesi hanno posto la privacy per non inviare i dati, e anche laddove abbiamo ricevuto questi dati sono dati che non comprendono tutte le voci di costo tipiche di un dirigente pubblico, ad esempio, cioè non comprendono la retribuzione cosiddetta di posizione o quella di risultato. Conclusione: i dati che abbiamo raccolto sono frammentari, sono insufficienti per fare quelle medie statistiche che la legge ci impone e che avrebbero dovuto diventare il tetto per legge di tutte le retribuzioni delle varie persone che occupano queste posizioni. Nel mondo della politica, cioè non stiamo parlando del tetto ai manager, che è un'altra questione, i 300 e i 290 mila euro, no? No, stiamo parlando proprio di quello, nel senso che al di là della Camera e del Senato parliamo di tutti i dirigenti pubblici, dei ministeri, parliamo dei presidenti delle authority, parliamo dei presidenti delle agenzie, come per esempio l'Agenzia per l'Innovazione oppure quella per la sicurezza nel volo e così via, e poi parliamo dei sindaci, dei consiglieri comunali, dei presidenti delle regioni, delle province, dei consiglieri provinciali. E quindi oltre ai costi della politica in senso stretto, anche tutti i costi della pubblica amministrazione, quegli stipendi che avevamo commentato in vario modo, dal capo della polizia che prende 600.000 euro, il doppio del suo equivalente all'FBI, al direttore del monopolio di Stato 400.000 euro, cioè 400.000 euro all'anno, quei costi lì che si sarebbero dovuti portare a una forma omogenea, se non ricordo male il progetto era non superiore ai 290.000, giusto? No, dovevano essere semplicemente la media delle retribuzioni degli altri sei paesi, dopodiché il governo invece, nella sua autonomia, e il Parlamento ha confermato questo tetto, con il decreto Salva Italia ha fissato un livello di 294.000 euro. Esatto. Effettuando le vostre rilevazioni, avete incontrato una scarsa collaborazione da parte di altri paesi, dei soggetti interessati, quindi manager pubblici, enti locali, istituzioni ed enti in generale? No, perché noi ci siamo rivolti attraverso le ambasciate italiane ai governi, e qui dobbiamo riconoscere che la trasparenza nella pubblica amministrazione italiana è molto superiore a quella degli altri paesi. Mentre infatti per i parlamenti i siti web di tutti i paesi considerati più o meno riportano dati informativi molto dettagliati sulla struttura delle retribuzioni dei parlamentari, e infatti li avevamo utilizzati per il nostro rapporto di dicembre, per ciò che riguarda queste altre figure, presidenti di authority o di commissioni o i dirigenti pubblici, in molti paesi non c'è l'obbligo di pubblicazione di questi redditi come invece c'è in Italia. Addirittura in diversi paesi ci hanno posto proprio la privacy per evitare la pubblicazione di queste informazioni. Quindi lei non avete avuto problemi a riperire i dati in Italia? No, in Italia non li abbiamo proprio neanche chiesti perché tanto erano, era il nostro... Esatto, l'obiettivo era semplicemente guardare quello che fanno gli altri paesi. Qualche difficoltà c'è stata, ma mi sembra di capire che tutto il blocco, diciamo, l'SVA Renati sia di carattere metodologico, cioè se tu non puoi confrontare mele con le pere, se non esistono questi su 30 enti, solo 9 esistevano anche negli altri paesi, diventa difficile poi fare un paragone. Però le chiedo una cosa, Presidente Giovannini, quando noi analizziamo i costi della politica in generale, noi vediamo che, insomma, ultimo dato, 1.300.000 persone vivono di politica in Italia, spesa complessiva 25 miliardi, 680 euro a cittadino, 180.000 eletti in Italia tra enti locali e organi nazionali, contro che praticamente è la somma di tutti gli eletti tra in Francia, Germania, Inghilterra e Spagna messi assieme. Costo di un parlamentare in Italia 1.530.000 euro, in Francia costa la metà, 800.000 euro, in Germania la metà, 800.000 euro, in Gran Bretagna addirittura un quinto quasi, 350.000 euro, in Spagna 260.000 euro, da noi costa un parlamentare 1.500.000. Allora, già questo tipo di raffronti però a noi viene molto facile farlo, perché non si può dire, vabbè, anche visto che in Germania, Francia e Spagna il costo va da 800 a 250.000 euro, anche da noi deve costare questo? Perché... So che la domanda è un po' grezza, però poi... No, ma è assolutamente ragionevole. Il punto è l'errore che noi abbiamo sottolineato nella normativa, è che non si è detto prendiamo dei dati statistici e poi decidiamo noi, noi intendo la politica, l'amministrazione pubblica, i manager, eccetera. No, si è detto prendiamo una media statistica e per legge la rendiamo il tetto. Questa differenza è fondamentale perché immaginiamo che lei stesso fosse oggetto di un taglio di questo tipo, lei avrebbe voluto andare a vedere come la Commissione aveva fatto i calcoli precisamente e scoprendo che ad esempio per alcuni dati la Commissione aveva fatto delle imputazioni di carattere statistico mentre la legge dice che devono essere dati reali, lei probabilmente sarebbe andato da un giudice e avrebbe in qualche modo bloccato l'applicazione della legge. Però voglio dire, non so, l'indennità di base annuale per i parlamentari europei, insomma, un parlamentare italiano ha 150.000 euro l'anno, i tedeschi 84.000, i francesi 60.000, gli spagnoli 40.000, gli ungheresi 10.000, cioè nulla. Allora, lì io ho capito cosa le dice, occorrono dati reali, non media statistica, ma resta il fatto che sia sui costi, sia sulle indennità, da noi i parlamentari costano e hanno guadagni che sono doppi, no? E quello che noi abbiamo presentato a fine anno 2011, cioè delle tabelle di confronto che non sono servite a fare la media in senso giuridico, ma hanno comunque offerto alla pubblica opinione esattamente questi dati, hanno spinto, penso, il Parlamento a fare alcune modifiche, tante, poche, sufficienti. Questo lo deve decidere il Parlamento stesso e l'opinione pubblica. Il nostro compito è stato proprio quello di fornire i dati che abbiamo raccolto. Ed è questo, secondo me, il modo corretto di usare l'informazione statistica piuttosto che sperare che una media statistica sostituisca una decisione politica. Ecco, però per concludere, Presidente, questo vuol dire che cioè, tramonta l'ipotesi di arrivare a una media, cioè a utilizzare le medie europee per ridurre i costi della nostra politica? Cioè questo di fatto affossa l'ipotesi di andare verso costi più europei? Non necessariamente, anche perché la scelta dei paesi 3, 6, 9, quello che sono, non è necessariamente l'unica strada possibile. Lei faceva riferimento ai parlamentari e uno avrebbe potuto dire invece che prendere i parlamentari di 6 paesi, prendiamo direttamente i parlamentari i dati del Parlamento europeo e poi gli applichiamo una percentuale, il 100%, l'80%, il 60%, quello che fosse. Questo modo di fare i calcoli sarebbe stato immediatamente possibile. Questo per dire che... Ma quindi secondo lei non c'è stata la volontà politica di arrivare... No, quello che intendo dire è che ci sono vari modi per realizzare una volontà politica. No, ho capito, ma mi scusi Presidente, ma se noi abbiamo scelto, se la classe politica e il governo di allora ha scelto il modo che poi per voi diventa impossibile da un punto di vista del confronto... insomma, io la capisco anche come una volontà politica di non arrivare a un vero dato. Come abbiamo scritto nella relazione, c'erano delle ipotesi alla base della normativa. Noi abbiamo dimostrato che purtroppo queste ipotesi sono irrealizzabili. La palla torna quindi alla politica, al Parlamento, al governo, per dimostrare in che direzione la politica vuole muoversi. Quindi voi dite, attenzione che col metodo che ci avete chiesto non riusciamo seriamente, quindi anche deontologicamente, a fare un lavoro corretto, non riusciamo a raffrontare questi dati. Quindi la palla torna a questo punto al governo e quindi al Parlamento, mi scusi, se c'è veramente questa volontà siamo disponibili a utilizzare un altro metodo, ma non questo? Il governo nella nota che ha diffuso oggi ha ribadito la sua intenzione a procedere nella direzione del limite agli stipendi nel settore pubblico e quindi prenderà le sue determinazioni e o le proporrà al Parlamento, perché la legge che ci ha istituito non è che ha terminato i suoi effetti oggi. La Commissione avrebbe dovuto fare dei calcoli annuali da qui al momento in cui la legge non fosse modificata e quindi già a giugno una commissione dovrebbe fare i calcoli per il 2012. In questo senso è urgente che il Parlamento decida se vuole ricostituire una nuova commissione,